Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo giovedì 14 novembre, dunque non solo Venezia ma anche Napoli, Matera e tante altre località e fortunatamente stavolta nessuno incolpa la famosa bomba d'acqua, ma è un assoluto disastro sulla manutenzione del territorio. Ma di questo parleremo, vediamo subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Bolivia elette unilateralmente la nuova presidente ad interim. Gaza cessato il fuoco in vigore da stamattina. Stati Uniti, Trump incontra Erdogan, ma niente di fatto. Egitto, scomparsa una donna che ha criticato la moglie del presidente al-Sisi. Arabia Saudita, un video dell'Agenzia della Sicurezza definisce il femminismo estremista. Libia, tre paesi danno armi al rinnegato leader Haftar, dice un'inchiesta di Al Jazeera. Ancora Ucraina, due strade intitolate a nazisti. Cina, due persone trattate per la morte nera, ovvero la peste. Non si placano invece gli incendi. In Australia salgono a 4 i morti. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dalla Bolivia, dove salgono a 7 le persone morte da quando sono scoppiate le proteste dopo le elezioni del 20 ottobre. Lo ha rivelato la Procura Generale, specificando che 2 persone sono morte a La Paz, 2 a Santa Cruz e 3 a Cochabamba. Tutti questi casi saranno indagati fino a quando non verrà stabilita la verità e gli autori non saranno puniti a norma di legge, ha detto Juan Lancipa, procuratore generale. La maggior parte delle vittime sono morte per proiettili di arma da fuoco e colpi con oggetti contundenti. Intanto il governo brasiliano e quello statunitense hanno riconosciuto, nonostante non ci sia stato il quorum del Parlamento, come presidente ad interim della Bolivia, che sostituisce il dimissionario Morales, la senatrice di opposizione Janine Áñez, che dovrebbe convocare al più presto nuove elezioni. È stata nominata dalla sua formazione politica, alcuni altri gruppi. Morales ha definito la nomina una autoproclamazione che costituisce il golpe più subdolo e nefasto della storia. L'Áñez sta già creando un nuovo gabinetto. Il presidente Evo Morales, in esilio in Messico, ha detto di essere disponibile a tornare se gli elettori lo desiderano. Improbabile che sia nelle intenzioni della Áñez, non lo sono di certo per quelle dell'esercito e della polizia, che hanno impedito ai parlamentari pro Morales di entrare in Parlamento mercoledì. Intanto la gente riscende in piazza. Un terremoto 5.5 fa tremare la costa del Guatemala. Stati Uniti. L'impeachment inquiry into Donald J. Trump. È cominciata la fase pubblica al Congresso dell'indagine che potrebbe portare all'impeachment di Donald Trump, il presidente accusato di abuso di potere per aver fatto pressioni sull'Ucraina perché si indagasse sui suoi rivali politici. I primi 2 testimoni ascoltati in diretta televisiva alla Camera sono William Taylor, ambasciatore americano a Kiev, e George Kent, sottosegretario al Dipartimento di Stato con delega all'Europa. Hanno raccontato come Trump ha cercato di condizionare gli aiuti militari a Kiev e la visita del neo presidente Zelensky alla Casa Bianca quando sono cominciate le indagini delle autorità ucraine contro Biden e i democratici. Intanto alla Casa Bianca Trump ha ricevuto il presidente turco Erdogan, ha detto di essere un suo fan, un buon amico dal primo giorno. We had a wonderful and very productive meeting. I'm a big fan of the president. Ma la visita di Erdogan non è stata tutta sorrisi e strette di mani, visto che un certo numero di legislatori di entrambe le parti sono profondamente critici nei confronti del turco su una serie di questioni, in particolare l'invasione turca della Siria. Anche Erdogan non è particolarmente contento del Congresso degli Stati Uniti, avendo condannato con rabbia una recente risoluzione di genocidio armeno, ritenuto un grave insulto alla Turchia. Il presidente Trump, da parte sua, è sembrato voler evitare polemiche, ha evitato accuratamente qualsiasi argomento di disaccordo, lodando invece Erdogan, ma nonostante il meraviglioso incontro, i due non hanno risolto alcun problema. Nel corso dell'ultimo mese gli Stati Uniti e la Turchia sono stati in contrasto su questioni incentrate sulla Siria, Trump ha minacciato di distruggere l'intera economia turca, invece ieri ha detto che Erdogan ha una meravigliosa relazione con i curdi, di cui molti vivono in Turchia. E sono felici. Secondo il Wall Street Journal, il governo turco ha usato uno studio legale di Washington per raccogliere informazioni sui suoi critici, compresi i residenti negli Stati Uniti, ritenuti alleati con il movimento politico che Erdogan ritiene nemico numero uno, l'imam Gulen. Arabia Saudita, le autorità hanno preso le distanze da un video ufficiale che ha suscitato polemiche dopo che ha bollato il femminismo, l'omosessualità e l'ateismo come idee estremiste. L'agenzia di sicurezza statale dell'Arabia Saudita ha pubblicato un video su Twitter la scorsa settimana, poi il tweet è stato rimosso. Intanto la Commissione per i diritti umani del Regno ha sottolineato che il femminismo non è criminalizzato e accorda la massima importanza ai diritti delle donne. Non dice nulla sull'omosessualità o l'ateismo, che sono sia illegali che punibili con la morte nel regno. Il video ha suscitato critiche da parte di attivisti per i diritti umani. Amnesty International ha definito il video estremamente pericoloso, con gravi implicazioni per i diritti alla libertà di espressione e di vita, libertà e sicurezza nel paese. La Germania e l'Olanda hanno promesso di riprendersi i combattenti dell'ISIS e le loro famiglie in questo momento detenute in Turchia, lo ha dichiarato il ministro degli esteri turco Soylu. In Turchia ci sono 1200 jihadisti, tra cui 287 stranieri catturati durante l'offensiva nel nord-est della Siria. Libano, nuove proteste dopo che il presidente Aoun ha fatto arrabbiare i manifestanti esortandoli a porre fine alle manifestazioni contro la corruzione dell'elite al potere. Intervistato martedì in televisione, ha detto ai manifestanti di tornare a casa o di andare sulla luna. Il presidente ha dato vita così a nuove manifestazioni notturne durante le quali un manifestante è stato ucciso a sud di Beirut, il secondo morto durante le proteste. Scuole e banche chiuse da due giorni e sono state chiuse in gran parte delle 4 settimane dall'inizio di queste proteste contro i leader politici visti come avidi, incapaci di salvare il Libano dall'aumento della povertà e della disoccupazione. Aoun ha dichiarato che intanto non vi è stata alcuna svolta nella formazione del nuovo governo in sostituzione a quello di Hariri, che si è dimesso. Gaza. Un bilancio devastante, quello provocato dai razzi israeliani in due giorni dopo che ne erano arrivati in Israele a seguito della morte del comandante militare della Jihad islamica, ucciso in un bombardamento contro la sua casa a Gaza. La ritorsione della ritorsione di 32 palestinesi morti, tra cui un'intera famiglia, un bambino di 7 anni e due minori di 16 e 17 anni, 71 i feriti, tra cui 30 minori. L'inviato delle Nazioni Unite Nikolai Medvedev ha condannato il lancio indiscriminato di razzi e proiettili di mortaio contro i centri abitati. Non c'è giustificazione per qualsiasi attacco contro i civili, ha detto Mladenov, che starebbe lavorando una de-escalation della situazione. Per il premier israeliano la Jihad islamica starebbe cominciando a capire il messaggio. Invece il ministro degli esteri di Teheran ha accusato Israele di crimini di guerra e ha auspicato che venga processato in un tribunale internazionale. Intanto da questa mattina un accordo tra Israele e le fazioni armate per il cessate il fuoco è partito grazie alla mediazione dell'Egitto. E a proposito di Egitto, Radwa Mohammed risulta scomparsa dopo aver postato diversi video diventati virali in cui critica il presidente al-Sisi e sua moglie, ha detto il dissidente Muhammad Ali. Ali, acceso critico di al-Sisi, dall'inizio di quest'anno ha dichiarato in un'intervista televisiva che una donna di nome Radwa Mohammed gli ha inviato un messaggio vocale all'inizio della giornata dicendogli che le forze di sicurezza stavano per arrestarla. Ali ha pubblicato il messaggio vocale nel suo canale YouTube, sollecitando una campagna sui social media, chiedendo il suo rilascio. Muhammad, le forze di sicurezza centrali sono qui, sono nella costa nord, sono terrorizzata, ha detto Radwan nel messaggio vocale che Ali ha detto di aver ricevuto su WhatsApp. Radwan nei suoi video aveva accusato Intisar, la moglie di Assisi, di essere complice del fallimento e della corruzione del presidente. Ali, invece, 45 anni, è ora in Spagna, in una località segreta, ha lavorato per 15 anni come appaltatore militare in Egitto, fino a quando non è fuggito dal paese. All'inizio di quest'anno ha iniziato a pubblicare video descrivendo in dettaglio le sue esperienze all'interno del sistema e chiedendo che la gente si sollevi contro Assisi. Libia. Egitto, Russia, Emirati Arabi Uniti hanno inviato armi al comandante Haftar, leader della Cirenaica. Al Jazeera Arabic ha svelato come questi tre paesi abbiano fornito sostegno agli armamenti del comandante rinnegato che il 4 aprile scorso ha lanciato un'offensiva contro il governo di accordo nazionale, il GNA di Tripoli, riconosciuto dalle Nazioni Unite. Il programma investigativo Point Black, che ha trovato documenti esclusivi intervistati i leader del GNA, hanno parlato del complesso funzionamento del sostegno dei tre paesi ad Haftar e al suo personale esercito libico nazionale. Stai ascoltando Radio Bullets. Polonia, la polizia ha arrestato due persone accusate di aver pianificato attacchi contro musulmani ispirati all'assassinio di massa norvegese Breivik e al suprematista bianco Brenton Tarrant in Nuova Zelanda. Gli arresti seguono una serie di attacchi che coinvolgono suprematisti bianchi e che prendono di mira minoranze etniche e religiose in tutto il mondo. Ucraina, i parlamentari hanno appoggiato un disegno di legge per creare un mercato fondiario, aprire le vendite dei terreni agricoli dal 2020, nonostante il temuto contraccolpo pubblico. Questo giorno passerà alla storia dell'Ucraina, ha dichiarato il primo ministro che era presente in Parlamento durante il voto, dopo che il disegno di legge è stato approvato nella prima delle due letture. Infine possiamo passare dal feudalesimo alle relazioni di mercato reali come un paese sviluppato a pieno titolo. La riforma è attesa dagli investitori, ma i critici temono che l'apertura del mercato fondiario porterà un'acquisizione da parte di proprietari stranieri o gigantesche proprietà terriere che sono state disponibili solo per l'affitto dal periodo sovietico. Alcuni terreni agricoli sono di proprietà del governo, ma molti sono piccoli appezzamenti che i residenti hanno ricevuto dopo la caduta dell'Unione Sovietica e sono attualmente illegali da vendere. Restiamo in Ucraina perché nella capitale alcune strade sono state intitolate a collaboratori nazisti. Il Consiglio Comunale di Kiev ha nominato una strada cittadina Ivan Pavleko, ritenuto collaboratore nazista e criminale di guerra, ha guidato un'unità coinvolta nell'uccisione di migliaia di ebrei durante l'occupazione nazista. Un'altra strada è stata intitolata Nil Kasevich, attivista dell'Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini, che ha disegnato vignette antisemite ed è stato coinvolto in omicidi di massa di polacchi durante la Seconda Guerra Mondiale. Afghanistan, un'autobomba esplosa ieri mattina, puntava un convoglio di una ditta di sicurezza privata, la Garda War Security, che fa base in Canada. Kabul ha ucciso 12 persone, tra cui 3 minori, e ferendone altre 20 nell'area di Kasaba, nel distretto 15. Nessuno ha ancora rivendicato. E peggiora l'inquinamento in India, la capitale New Delhi soffoca, tutti ne parlano tra politici e media, ma nessuno sembra trovare soluzioni. Polinesia, il fondatore di Cirque du Soleil, Guy Lalibert, è stato preso in custodia dalla polizia per aver coltivato cannabis, ha dichiarato la società di investimenti La Liberté. L'Ur Rouge, la società di investimento tecnologica e di innovazione con sede a Montreal, ha detto che La Liberté, 60 anni, è stato interrogato riguardo alla cannabis che coltiva solo per uso personale nella sua residenza di Nuku Tepipi, un'isola della Polinesia francese. Cina, due persone sono state colpite dalla stessa malattia che ha distrutto quasi un terzo della popolazione europea oltre 600 anni fa, la morte nera, ovvero la peste. Le due persone sono in cura in un ospedale centrale di Pechino, non è ancora noto come siano entrate in contatto con la malattia, se non trattata la malattia altamente contagiosa, nota anche come peste polmonare, e può rivelarsi fatale entro 72 ore della forma più virulenta di peste, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. I pazienti provengono dalla provincia nord-occidentale della Mongolia, hanno detto i funzionari distrettuali in una dichiarazione online, aggiungendo che sono state implementate le pertinenti misure di prevenzione e controllo. L'OMS ha confermato che le autorità cinesi li hanno informati dei casi di peste. Secondo il sito web dell'OMS, la peste polmonare è molto contagiosa e può scatenare gravi epidemie attraverso il contatto da persona a persona. I sintomi includono febbre, brividi, vomito e nausea. Esistono due tipi principali di peste, polmonare e bubbonica. L'OMS afferma che la forma bubbonica è la forma più comune e meno mortale della malattia. Su Weibo, la popolare piattaforma di social media inglese, i censori hanno cancellato i riferimenti ai casi di peste mentre cercano di controllare le discussioni e il possibile panico sulla malattia. Hong Kong, sempre peggio la situazione. Il gestore della metro ha sospeso alcune linee a causa delle proteste pro-democrazia. I servizi vanno ad intermittenza. La polizia è tornata alla Chinese University, dove si trovavano un'ottantina di studenti armati di Molotov. Il Parlamento ha sospeso i lavori per le discussioni tra pro-democratici e pro-Pechino. Da oggi tutte le scuole saranno chiuse per motivi di sicurezza. E infine Australia, 1 milione di ettari di terra sono bruciati tra il New South Wales e il Queensland fino ad arrivare alla periferia di Sydney e altre città importanti. Una lotta che secondo le autorità potrebbe durare mesi. Si parla di catastrofe, un caldo torrido, umidità zero e vento forte. Da ovunque arrivano aiuti, tra cui la Nuova Zelanda. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Vi ricordo che siamo una testata online indipendente. Se volete, se credete in un giornalismo di qualità, potete sostenerci andando su radiobullets.com/sostienici. Appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. Where? testimonio. 5 parole per condire il tuo linguaggio. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori. Nel Pinsimonio di oggi andiamo ad approfondire alcune parole legate al tema dell'industria, che sono commissariamento, statalizzare, coercizione, corruzione e concussione. Cominciamo con commissariamento, che è un provvedimento che impone temporaneamente la gestione commissariale di un ente o di un istituto quando gli organi ordinari preposti all'amministrazione di questi non vogliano o non siano in grado di funzionare. Poi abbiamo statalizzare, che significa attribuire allo Stato la proprietà e la gestione di mezzi di produzione e imprese produttrici di beni o servizi già appartenenti a privati o soggetti a una diversa forma di gestione pubblica, come statalizzare le ferrovie. Nell'uso comune è spesso usato come sinonimo di nazionalizzare. È il contrario di privatizzare, che significa invece rendere privato, nel senso di trasferire a una proprietà privata un bene o un servizio pubblico, la privatizzazione delle acque. Poi coercizione è l'obbligare altri a fare o non fare una cosa, usando la forza o minacciando di usarla. Coazione, costrizione, limitazione della libera volontà. Subire una coercizione morale. Continuiamo con corruzione, che indica il corrompersi, l'essere corrotto, nel senso della decomposizione, del disfacimento di qualcosa, la corruzione dell'aria o la corruzione delle acque. Corruzione è anche il guastarsi o il degenerare, come la corruzione di una lingua, che è un'espressione spesso usata dai puristi. Ma corruzione è più spesso usato in senso morale, come depravazione, la corruzione dei costumi. In senso antico corruzione significava anche contagio. E invece in senso attivo, corruzione è l'opera di chi induce gli altri al male. Un esempio ne è la corruzione di pubblico ufficiale, che è un delitto contro la pubblica amministrazione consistente nel dare o promettere denaro o altri vantaggi a un pubblico ufficiale perché egli compia un atto contrario ai propri doveri di ufficio. E simile ma differente è la concussione, che è un reato di un pubblico ufficiale e non di qualcuno che convince un pubblico ufficiale a mancare ai propri doveri. È un reato di un pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente denaro o altra utilità, anche di natura non patrimoniale. E in senso antico, con riferimento al significato latino del verbo concutere, che significava sbattere o agitare insieme, la concussione è anche una scossa violenta o un'agitazione. Quindi la corruzione è l'opera di qualcuno che offre una ricompensa a un pubblico ufficiale perché egli compie un atto contrario ai propri doveri di ufficio, mentre la concussione avviene dall'altro lato, cioè quando è il pubblico ufficiale che, abusando della sua autorità, chiede a qualcuno una ricompensa. Per cui è sempre un reato, ma quello che cambia è la gente che lo compie. Vi ringrazio per aver ascoltato il Pinsimonio e vi aspetto martedì sempre alle 9:15. Buon proseguimento di ascolto. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. E un ringraziamento speciale per averci offerto la base di questa puntata va ad Apo, che potete trovare su SoundCloud sotto il nome di Diego Mantovani. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazioni di carattere non strettamente personale. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Vogliono dirmi che non mi ami più. Vogliono dirmi che non mi vuoi più bene. Mi fanno già capire che io ti perderò. Com'è strana stasera la tua voce, mi sta dicendo che non ho più il tuo amore. Mi sta dicendo che tu non vuoi parlarmi più, mi fa capire che io ti perderò. È finita così semplicemente, la fiamma è spenta, il nostro amor non vive più. E nei tuoi occhi io vedo quel che non sai dire, non dirò, già lo so che tu mi lascerai. Ti perderò. Radio Città Fujiko. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere. 9:31 minuti di questa giornata del giovedì 14 novembre, naturalmente tutti i riflettori sono girati su Venezia, che come dice il Messaggero di Roma, Venezia fonda, scandalo Mose, poi vedremo cosa si intende per scandalo Mose, e questo è se non piove pioverà, nessuno può dire, potrà mai dire che l'acqua alta Venezia è stato un imprevisto. Si dice, ma no, ma il precedente era del 67, beh sì, ma se non piove pioverà per l'appunto, poteva succedere 5 anni fa, tra 10 anni, ma sarebbe successo. Tutti adesso parlano di emergenza, anche se fortunatamente questa volta nessuno incolpa le famose bombe d'acqua, perché non è stata una pioggia poi così tremenda. Venezia umiliata, questo è il Gazzettino del Nord-Est, mentre il Mattino di Napoli, morte a Venezia, scandalo Mose. Devo dire che per Venezia non mancano i riferimenti letterari e musicali da poter titolari giornali, quindi abbiamo il secolo XIX, salviamo Venezia, l'avvenire, naufragio Venezia, disastro annunciato, e il Riformista questa volta smette di mordere i giudici per dire Venezia se ne va, nessuno ha voluto salvarla. Questo è un alcuni titoli, ma il Corriere per esempio è Venezia in difesa sott'acqua, in difesa anche perché si sa che si continua il fenomeno dell'acqua alta, non si sa che punto arriverà, ma non possiamo farci nulla. se non pregare il santo patrono San Marco. A un passo dall'Apocalisse, timori per la Basilica di San Marco, completamente inondata, compresa la cripta, perché l'acqua risale dal basso nella Basilica di San Marco. Quindi gondole distrutte, blackout, i turisti in fila per un selfie, naturalmente colpita fortissimamente anche l'industria turistica, che Venezia aveva da sé, che l'hanno resa una sorta di Pompei, un Disneyland, come dice il vescovo locale, o forse Atlantide, visto come vanno le cose. Beh, il turismo è stato ampiamente colpito, centinaia di milioni di allarme sui danni. Brugnaro fa il primo, il sindaco fa il primo bilancio, Conte è stato di emergenza. Quindi questo è il Corriere, sfogliandolo andiamo al Manifesto, che poi apre: nella notte da incubo la città lagunare ci scopre a rischio, l'allarme del servizio maree è andato in tilt, paura e sconforto, i cittadini fanno da sé, ma fanno quello che possono, quindi che con le barriere che davanti alle case, ai negozi di 1,75 1,75 centimetri, è chiaro che quando l'onda quasi arriva a 2 metri non si può fare nulla. L'acqua alta fa da sempre parte della vita della laguna, ma picchi del genere non sono naturali, arrivano se si scavano canali nuovi o se si tagliano i fondi al centro maree. Questo è il comitato non-navi che fa sentire la sua voce. Ma anche l'intervista che arriva dal Manifesto da Rigo Vestucci, che è l'ex procuratore di San Marco, che è una figura commissariale apposita per la città lagunare, tanto bella quanto fragile, dice: siamo gli artefici della nostra cattiva sorte. Qui non è un problema di maree, di venti, scirocchi ed altro, i che sono sempre stati. Quest'acqua acqua alta ci è costata tanto, ma dobbiamo tirare fuori la capacità di fare un punto di partenza per un nuovo inizio. Ed è qui che ne cominciano i guai, perché in Italia uomo avvisato per nulla salvato. La città si sta svegliando, questo è ancora. Questa volta Andrea Capocci, sempre dal Manifesto: come triste Venezia, aumentano le calamità, non sono più naturali, tra virgolette, sempre più frequenti gli eventi estremi globali, il livello del mare salirà un po' ovunque, questo è quanto. Ma il giornale ha trovato subito i colpevoli, non è neanche lo scirocco, neanche il mare, è chi annega Venezia? Ecologisti, sinistri e magistrati. E questo è il vecchio leitmotiv, no? Il tormentone, la tragedia dei no. Come se in Italia ci fossero tanti no e nessun sì, perché mai fatto un'autostrada, mai fatto un traforo, mai fatto un bonus, per esempio, no? Ecologisti, sinistri e magistrati hanno rallentato il MOSE e ora piangono. Il MOSE naturalmente è una ciofeca che non serve neanche per impedire queste situazioni. Comunque, dopo TAV e ILVA, un'altra emergenza per il governo della decrescita. E questo, quindi, la colpa è di ecologisti, della sinistra e dei magistrati. Naturalmente Galan, quello di Forza Italia, messo in galera perché sul MOSE ha fatto dei soldi, devo dire anche Orsone, sindaco appoggiato dal PD, comunque quelli non c'entra niente, la colpa è di sinistra, magistrati che ha messo in galera Galan e Orsoni, e degli ecologisti che almeno sono colpevoli, perché gli ecologisti sono colpevoli perché tirano le iazze, dicono sarà un disastro arriva, è colpa vostra, portate gliela. Questo è il ragionamento del giornale. E il Fatto Quotidiano invece l'ha imposta diversamente: le mazzette non assorbono l'acqua alta, sì, perché purtroppo non trattengono il mare. Venezia, dopo 31 anni, 6 miliardi buttati via in sprechi e corruzione, 6 miliardi, e 5 qualcosa per il MOSE, più qualcosa per le mazzette. Il MOSE non funziona e la città affoga. Allora, ma tutti in coro oggi, e i giornali pure dietro come tante pecore: il MOSE va completato. Il Premier, siamo addirittura d'arrivo, anche Conte dice questa mattina, Conte impegno per Venezia e per il MOSE, quindi altri soldi e speriamo anche non altre mazzette. Comunque, ma invece c'è una voce contraria, che non è solo quella degli ecologisti, della sinistra, dei magistrati, del comitato non navi, quelli che hanno l'orecchino il piercing, quelli con i capelli lunghi, quelli che suonano il rock, quelli che si fanno le canne, no, non solo quelli, ma anche del cacciatore, tre volte sindaco di Venezia, quindi persona che ne ha viste di passare di acqua sotto i ponti della laguna. Serviva manutenzione, non lo stupido MOSE, dice Cacciari. Il filosofo, io me ne ricordo bene, destra e sinistra, Prodi e Berlusconi, tutti ad applaudire, quindi non è santo la sinistra dei no, purtroppo è la sinistra dei sì, come di quei tipo di sì lì. Nel 2006 c'è stata la commissione, io sono stato l'unico a votare contro, l'unico ho preteso che fosse messo tutto a verbale. Oggi Cacciari può rivendicare questo suo no. Sì, l'ex sindaco Cacciari è stato teorico dell'elevazione dei primi, dei piani terra, e sicuramente rispetto al Mose avrebbe avuto un costo molto inferiore, un effetto molto maggiore. Esatto. E la pagina 2 del Resto del Carlino, quotidiano nazionale, ci presenta appunto questa grave marea che sommerge Venezia, la devastazione apocalittica ai livelli record dal 66, il conto dei danni sono centinaia di milioni. Nella notte c'è stato un'altra alta marea, un'altra acqua alta, come dicono a Venezia, ma solo di 125 centimetri, e quindi il pericolo è rientrato. Attualmente le previsioni del tempo stanno migliorando, ma nelle pagine del Carlino appunto si parla del teatro La Fenice, dove il ministro Franceschini ha attivato subito un'unità di crisi, e l'arte è a rischio, la cripta della Basilica di San Marco è stata completamente inondata, e volevo ricordare anche una bellissima antica libreria tra Piazza San Marco e il Ponte di Rialto, libreria Acqua Alta, che comunque sia aveva delle protezioni che però non hanno retto, e attualmente ci sono un sacco di ragazzi universitari che stanno aiutando a smaltire le cose. Sempre sul Resto del Carlino segnalo un articolo di fondo di Franco Cardini, che ha un incipit di questo genere: che Venezia muore non è una cosa nuova, anzi diciamo pure che è normale, tutti moriamo fin da quando cominciamo a vivere. La Serenissima, così vittoriosa e trionfale, ha sempre un risvolto cupo, brumoso, crepuscolare, diciamo pure funebre, come le gondole nere che scivano sull'acqua fino all'isola di San Michele. Ma che Venezia muoia per l'acqua alta, che Venezia scompaia annegata, questo per dirci no. Tuona appunto questo giornalista. Venezia è la signora del mare che l'ha sposata, come ogni anno proclamava il Doge dall'alto del Bucintoro, e questa città è condannata a morte, e chi la restituirà da quando l'avranno perduta, si chiede in fondo all'articolo. E ancora sempre sull'argomento Venezia, il Sole 24 Ore: 7 miliardi e il Mose non c'è, questo è il titoli cubitali della prima pagina. L'opera contro l'acqua alta è costata 5,3 miliardi più altri 2 di interventi accessori, e il Conte, che ha accettato lo stato di calamità naturale, ha nominato il super commissario per sbloccare i lavori del Mose. Oggi un consiglio dei ministri straordinario sempre a Venezia, prima da parte di Conte di ritornare a Roma. Il Manifesto con Gianfranco Bettina, altro veneziano ecologista: il pianisteo sul Mose che non c'è. Ora che fare del Mose quasi finito? Quasi. È costato finora 5,3 miliardi, di cui uno di tangenti, su una previsione finale di 5,5, ma in crescita, colme le maree. Intanto, se si volesse verificarne la affidabilità, andrebbero corretti i difetti finora emersi, quasi sempre che sia possibile. Poi ne andrebbe valutata la funzionalità generale finale, senza far sperimentare i veneziani come cavi l'eventuale messa in funzione dal vivo. Quindi ne andrebbe almeno considerato il possibile adeguamento al nuovo quadro climatico ambientale, mentre certamente andrebbe ripresa l'oppida di riequilibrio e rigenerazione dell'ecosistema lagunare. Ma è più probabile che, a una disamina onesta e competente, ove mai si facesse, il Mose risulti piuttosto essere un altro problema invece che la soluzione epocale alla sfida della vecchia Venezia sta vivendo e sta soffrendo. Ma noi parliamo di Venezia perché chiaramente è l'epicentro del disastro, e anche per la sua così visibilità internazionale e nazionale. Tra l'altro questa mattina alle 10:50 è prevista una nuova marea di 125 centimetri, racconta le agenzie, e poi alle 11:20 un'altra 140 centimetri, molto alte ma inferiori a quelle devastanti della giornata di ieri. Ma non è solo Venezia, dicevo, perché fosse solo Venezia andrebbe anche bene, per quanto malissimo, è tutta l'Italia che va sotto. E allora Matera, che è la capitale della cultura, Matera, sì, fanno tanti fuochi d'artificio, spot televisivi, ma le condotte d'acqua no. Comunque Matera conta i danni dell'alluvione, metà Pontino in ginocchio dopo il nubifragio, situazione critica sulla fascia ionica, devastati i campi e le coltivazioni d'eccellenza. Avanti così, ma non basta, perché da Matera e dall'Irpinia ci spostiamo in Puglia, il Salento flagellato, voragine a Napoli, e questa è la campagna. Napoli, quando piove, si aprono delle voragini tremende, perché è una città tipo il Bruviera, fatta sui buchi. Prosegue l'allerta maltempo, ancora piogge in arrivo. La Liguria e Matera, anche la Liguria, quindi nord-est, nord-ovest, perciò la Liguria è un altro paese che se piove va sotto, certo, poi parlano di gronda e non di grondaie. Comunque, la Liguria e Matera fanno la conta dei danni. Questo è quanto per un manifesto che oggi, ricapitolando tutto, usa un titolo all'Aznavour: come triste Venezia. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. Si cercano parole che nessuno dirà, e si vorrebbe piangere, non si può più. Come triste Venezia, se nella barca c'è soltanto un gondoliere che guarda verso te e non ti chiede niente, perché negli occhi tuoi e dentro la tua mente c'è soltanto lei. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia, se non si ama più. I musei e le chiese si aprono per noi, ma non lo sanno che oramai tu non ci sei. Come triste Venezia, di sera alla luna, se si cerca una mano che non si trova più. Si fa dell'ironia davanti a quella luna che un dì ti ha vista mia e non ti vede più. Addio gabbiano in volo, che un giorno salutaste due punti neri al suolo, addio anche da lei. Troppo triste Venezia, soltanto un anno dopo. Troppo triste Venezia, se non si ama più. Ma a dimostrazione che il giornale ha ragione, la colpa degli ecologisti, guardiamo l'extraterrestre, che non viene stampato ieri e quindi è stampato qualche giorno prima, essendo un inserto del manifesto. Eppure, come dice il giornale, porta iazza, porta sfiga, perché è con l'acqua alla gola. Intere zone costiere rischiano di sparire per l'innalzamento dei mari. È il più colossale disastro causato dall'emergenza climatica. Se l'umanità non sarà in grado di invertire la tendenza, 150 milioni di persone saranno costrette ad abbandonare le coste entro il 2050. Le isole, i casi più drammatici, ma sono in pericolo anche le città da New York a New Orleans, da Shanghai a Bombay, da Dhaka Venezia. Allora vedete che sono colpevoli. Lo scenario apocalittico 21, Venezia tra le città a rischio sparizione. Clima anno zero, la grande fuga dall'alta marea, la chiamano Manager Retreat, ed è la fuga dalle aree costiere a rischio di inondazione a causa dei cambiamenti climatici. E poi appunto il manifesto in questo inserto descrive quali sono. I casi più drammatici riguardano isole oceaniche come le Maldive e le Bahamas, negli USA minacciati 13 milioni di abitanti. Questo è il tema. Ma se il mare è messo male, Beh, abbiamo ferito profondamente anche i fiumi, perché il Fatto Quotidiano, altro colpevole, perché altrimenti la casualità non sfugge a nessuno di questa argomentazione, con Virginia Della Sala parla dei fiumi, allarme pioggia. Allora la chiamate la pioggia, voi di sinistra, ecologisti, magistrati, orecchini, cannabino, eccetera eccetera eccetera. I nostri fiumi malati di cemento così si sono distrutti in 50 anni. Uno studio che arriva dal WWF. In mezzo secolo si è costruito su corsi d'acqua per un'area pari a 310.000 campi di calcio, questo per dire il rispetto delle fonti idriche. A rischio alluvione 7,7 milioni di italiani, quindi non solo nelle zone costiere, ma anche nelle zone limitrofe, i fiumi che scendono, non è che rimane molto altro, ma se vai in montagna arrivano le frane. Quindi vicino alla riva se vi si verifica ridosso per argine dighe, trasmettono un senso di falsa sicurezza. Questo è il quadro. E poi c'è, allora si torna in Liguria, anch'essa devastata dai fiumi e dal cemento, si parla di cemento questa volta. Ostinata e contraria, la Liguria che resiste viaggia nella terra di poeta, mole, contraddizione e speranza, a partire dal ponte Morandi. Sì, la parola del giorno per le pagine della Stampa, il quotidiano di Torino, è proprio acqua alta, ce lo dice Franco Giubilei. L'acqua alta è un'espressione veneziana entrata nel lessico comune a indicare il fenomeno dei picchi di marea che periodicamente determinano l'inondazione della città a livello eccezionale, raggiunto l'altra notte poco sotto i 190 centimetri e quasi un record dopo i 194 registrati durante l'altro evento catastrofico disastroso verificatosi nel 1966. A provocare l'invasione dell'acqua marina di Cali e Campielli, la combinazione dell'alta marea con condizioni meteo tipiche dell'Alto Adriatico, soprattutto in autunno e in primavera, i venti di scirocco che soffiano dal canale di Otranto impediscono il regolare deflusso delle acque, ma anche i venti di bora, come è accaduto in questo caso, ostacolano la fuoriuscita dalla laguna dei fiumi del litorale veneto, e si parla di marea eccezionale quando raggiunge o supera i 140 centimetri misurati dalla stazione di punta della Salute. E anche il Resto del Carlino fa il punto della situazione e parla del Mose: ritardi, inchieste, veti ambientalisti, e questa è l'odissea del Mose. L'eterno incompiuto, costato oltre 6 miliardi di euro, l'opera dovrebbe essere finita nel 2021. Il cartiere è aperto da 16 anni, ruggine nel cerniere, corrosioni del mare rischiano di trasformare la struttura in un museo sottomarino. C'è scritto come funziona, che i lavori sono partiti dal 2003, poi le paratie, le paratoie e tutto quanto il resto. Ce ne sono tre: uno a Bocca di Lido, sulla punta estrema di nord, una al centro alla bocca di Malamocco e un'altra in fondo vicino a Chioggia. E c'è già chi dice, fra gli ambientalisti, che questo sistema è un sistema delle e dannoso per tutta la laguna, perché cambia le correnti a questo punto Venezia rischia di sprofondare, per l'appunto. E c'è ancora, per quello che riguarda l'ambiente, queste cose, la pagina 8 di Repubblica. Elena Dusi ci fa il punto della situazione e dice: il clima cambia, la città sprofonda perché l'acqua alta fa più paura. E qui le cause del disastro di Venezia sono 6. Tre sono senza tempo: la luna, la faglia adriatica, l'argilla, ma gli altri tre fattori hanno aumentato i rischi e lo sfruttamento delle falde, il meteo impazzito e il livello del mare. La marea agisce a Venezia come altrove, il sole e la luna esercitano la loro forza di gravità, la platica dell'Adriatico si infila sotto gli Appennini, che scende con un'inclinazione di un grado e mezzo verso ovest. La natura del terreno, la depressione causata dalla tettonica, si riempie di sedimenti, sabbia e argilla, ma poi arrivano l'estrazione di acqua. Tra gli anni 50 e 60 le faglie profonde è stata estratta molta acqua per alimentare le industrie di Porto Marghera, spiega Giuseppe Gambolati dell'Università di Padova. A questo motivo Venezia ha perso 13 centimetri. Quando si è accorti del danno, alla fine degli anni 60, l'estrazione è stata vietata, ma l'ammassamento si è fermato. Gambolati è autore di un piano per risollevare la laguna pompando acqua in profondità in 12 pozzi. E poi c'è l'innalzamento dei mari. In un secolo e mezzo, secondo l'ISPRA, l'Istituto statale, il mare a Venezia è cresciuto di 35 centimetri, di cui 5 centimetri causati dall'abbassamento della città, e il resto deriva dal riscaldamento climatico, spiega Anzidei. Per la fine del secolo le proiezioni danno un innalzamento di 60-82 centimetri. E c'è Pascale, Salvatore Pascale, un esperto di clima e ricercatore, che parla di strategie per ipotizzare un sistema per arginare il problema, ma la vera sfida appunto sarà proprio il global warming, il riscaldamento globale. E questo ricercatore ha studiato a lungo i Medicanes. Che cosa sono? Sono i temporali tropicali ed extratropicali che si scatenano nel Mediterraneo e anche sulle coste degli Stati Uniti, che possono avere un raggio anche di 1000 chilometri. Questi sono più piccoli, quelli del Mediterraneo, parliamo di 200 al massimo 300 chilometri. Essendo più piccoli rispetto agli altri uragani, i modelli del clima globale, che hanno una risoluzione spaziale bassa, non li vedono, non li simulano bene. Così abbiamo usato il modello climatico globale ad altissima risoluzione, in grado di vedere meglio le loro caratteristiche. E le soluzioni per arginarli quali sono? Viene chiesto appunto in questa intervista a questo italiano che lavora a Stanford e studia i Medicanes a Venezia. Come altrove si possono ipotizzare infrastrutture per arginare i problemi, ma la sfida vera oggi è contenere il riscaldamento globale. Come ci ricordano i giovani, soltanto 4 giorni fa un Medicanes si è creato vicino all'Algeria per poi svilupparsi all'interno di una circolazione ciclonica più ampia, che ha portato piogge e venti nel sud Italia. E questi cicloni, come trombe d'aria più potenti e temporali estivi, ci sono già a causa del global warming, compiranno con più violenza un paese già fragile per cementificazione e consumo di suolo. Naturalmente Radio Fujiko non può costruire degli ombrelli e neanche delle arche, però può dirle in musica, quindi suoni d'ambiente, questa dai voce alla natura, contest di musica per l'ambiente, ovvero sia suoni d'ambiente è un contest musicale, una gara musicale volta a sensibilizzare autori e fruitori di musica alle tematiche relative alle buone pratiche ambientali, ai valori legati alla salvaguardia dell'ecosistema e anche alla diffusione di un atteggiamento responsabile nei confronti del proprio territorio. Quindi suoni d'ambiente per i produttori di musica creativa. Al servizio della difesa ambientale, anche perché parliamo per un attimo anche di boschi, sì, dunque l'Indonesia, che è così lontana e così vicina, abbiamo visto, l'Indonesia sta bruciando per l'olio di palma. Anche in Indonesia le foreste continuano a bruciare, dice l'extraterrestre del manifesto. Il fuoco viene appiccato per incrementare la coltivazione di soia e soprattutto di olio di palma. Lo conferma Greenpeace con un rapporto che punta il dito contro i 4 multinazionali del settore alimentare. Citiamole: Pepsi, il peccato e il peccatore, Mondelez, Nestlé, Unilever e Procter & Gamble. E allora anche boicottare l'Amazzonia, dice la ricercatrice brasiliana Erika Berenguer, quindi lo dice una brasiliana che non può essere accusata di essere anti-Brasile. Se il Brasile non rispetta i diritti ambientali, gli altri paesi potrebbero anche boicottarlo. Fin qui l'extraterrestre. Ma il Corriere, tutto questo, così è preoccupato? Perché poi è bello come i giornali parlano di Venezia, poi parlano di altro. L'ambiente oggi, questo è il titolo di Monica Ricci Sargentini. Greta, un passaggio per l'Europa da 2 youtuber australiani. Ma chi se ne frega, come no? Con tutto il rispetto per Greta Thunberg, imbarca dagli States con una famiglia, vuole arrivare in tempo a Madrid per la COP25. Non è la stagione più adatta per attraversare l'Atlantico, per giunta con un neonato. Greta. Ma questa non è Greta che è il neonato, è la famiglia, e comunque tutto fa brodo. E allora, sempre dalla serie ambiente, questa volta ambiente e produzione, andiamo a Libero, che mette insieme Venezia con Taranto, che sembrerebbe un'operazione complessa, invece c'è riuscito. Ilva chiude, vince 5 stelle, Venezia nega e c'è chi ride. Naturalmente chi rideva al tempo del terremoto dell'Aquila erano padroni legati alla destra italiana, ma invece qui chi ride immagino che siano ecologisti, gente che si fa le canne, capelli lunghi, transgender, immigrati, qualcun altro. Gli indiani mollano l'accelleria e gli stipendi non arrivano, Di Maio e Conte se ne infischiano. Non è vero, perché Conte comunque c'è anche andato a mettersi la faccia come a Venezia, ma detto questo, l'acqua alta fa milioni di danni, non c'entra niente, ma è tutto un livore, è una sorta che diventa, questo sì, non acqua alta ma con una materia molto nobile che è ancora più alta. L'acqua alta fa milioni di danni, ambientalisti grillini ne approfittano per incolpare la Lega. Questo è il titolo di libro questa mattina, e avanti così col nonsense volgare. E allora, ex Silva, sullo scudo accordo più vicino, ma decisione rinviata. Apertura dei 5 Stelle ad un decreto che potrà passare anche con il voto decisivo delle opposizioni. Se ne parlerà la prossima settimana. Già messi in conto i voti in dissenso, quei grillini che non ci stanno a prescindere, ma il governo dovrà comunque rimanere in piedi. Ma nel frattempo, siccome la Mittal Arcelor, scudo penale o non scudo penale, è l'unica cosa penale, qui un'altra cosa, chiude le fabbriche in Africa, in Europa, eccetera, per quanto riguarda il vecchio continente, sciopero europeo contro Mittal, consigli di fabbrica Genova, CGE, cassa integrazione guadagni speciali, Sanac, paghe parziali, questo è quanto. La maggioranza antiscudo vuole chiudere le fabbriche, questo è il titolo di Antonio Signorini dal giornale, che non solo incolpa il governo di essere impotente, cosa abbastanza vero, ma addirittura di essere far parte di un'oscura internazionale per chiudere le fabbriche, è un grande complotto. Il PD si accoda i grillini e lo fanno anche i renziani, che mettono in retromarcia sull'immunità ad Arcelor, mentre Asso Lombarda, guarda caso, che non è proprio imparziale, è un'associazione padronale, dice no alla nazionalizzazione. Beh sì, preferiscono la privatizzazione loro, chissà perché. Perché, forse perché ci guadagnano e lo Stato ci perde. Comunque, ma chi lo sa, sono misteri dell'economia. Ilva, dice il Fatto Quotidiano, la maggioranza per ora disinnesca il pericolo scudo. Paure e sconfessioni dei senatori di Big 5 Stelle, tanto non saranno votati e non farà cadere il governo. Ma Casson, Felice Casson, ex PM senatore, dice l'immunità è una legge incostituzionale e un brutto segnale. Quindi l'immunità è già incostituzionale, quindi non può passare gli esami della Corte. Ma detto questo, è anche un brutto segnale. L'ex PM è anche senatore, allora perché darla solo a un'impresa e non a 3 o a 10 o magari a tutte? Ora, se dal punto di vista legale ha ragione sicuramente Casson, da un punto di vista pratico meglio una che tutte, l'impunità sull'ambiente. Detto questo, dal punto di vista penale nessuno può essere chiamato a rispondere per fatti commessi da altri nel passato, su questo non ci piove, ma non ci vuole lo scudo, è già la legge attuale. Una vecchia storia, un articolo del 72 con cui Cefis minacciava di chiudere Marghera davanti ad indagini dei PM. Si torna al passato, anzi prima non si usava così tanto. Sì, sempre sul tema dell'Ilva, pagina 12 di Repubblica, c'è un bell'articolo che ci parla appunto di questo problema e della crisi dell'acciaio, e c'è anche un'intervista a Lucia Morselli, che è l'amministratrice delegata di Mittal, e dice che assicura il presidente della Puglia Emiliano l'intenzione di restare con la fabbrica aperta fino alla decisione finale del tribunale sul recesso contrattuale, e comunque verranno pagati i produttori. C'è un bel disegno esplicativo sulla produzione di ArcelorMittal, e allora l'ArcelorMittal ha 8.277 dipendenti a Taranto. Ci sono 6 milioni di tonnellate, la quantità annua prodotta appunto dalle acciaierie di Taranto, e 4 milioni di tonnellate all'attuale produzione annua, che dovrebbe scendere. I settori che utilizzano nel mondo l'acciaio dell'Ilva sono l'automotive, le finalità strutturali come l'edilizia, le infrastrutture, l'olio, il gas, le lamiere sempre in canteristica navale, gli elettrodomestici e la banda stagnata per l'agroalimentare. E la crisi, appunto, riguardando l'acciaio, riguarderà l'auto, gli elettrodomestici, l'industria è in ginocchio se chiude l'impianto di Taranto. C'è anche un focus su un personaggio che è la solitudine di Conte, difeso solo dai Dem, a pagina 13, un bel articolo di Claudio Tito, dove si parla appunto di questo premier col maglione a Venezia, poi con la giacca e senza cravatta all'Ilva, ancora con il suo completo firmato. E c'è ancora, per quello che riguarda la politica, c'è Salvini e la sfida di Bologna tra bagni di folla e proteste. La Lega cerca la spallata nella regione per le elezioni regionali del 26 gennaio del 2020, dove ha preso il 33% alle ultime europee. e c'è anche un inquadramento della candidata Borgonzoni, che però rimane sempre all'ombra del leader. Da Brunella Giovara ce la definisce una strana campagna elettorale, questa appunto tra il ciclone Salvini, tra selfie e sagre, e la candidata alla regione Emilia Romagna Lucia Borgonzoni. E puniti ci sono ancora i giornalisti nemici del leghista, che sono stati segnalati sui social perché si sono espressi male con appunto commenti negativi appunto su Salvini. E c'è invece sulla Stampa a pagina 10 e 11 si parla di pace fiscale, di incentivi per chi ha più figli, Salvini che lancia la famosa contromanovra rispetto a quella del governo. La Lega punta a neutralizzare le imposte sulla plastica e le auto aziendali, ma per ora non riunisce tutto il centrodestra. E poi ritroviamo sempre a pagina 11 un'intervista di Paolo Mastrolilli a Nicola Zingaretti, che ci parla di un clima da anni 20. Renzi, picconando il PD, apre la strada alla destra. Renzi minaccia di fare a noi quello che Macron ha fatto ai socialisti francesi. L'alleanza coi 5 Stelle gli viene chiesto, stravagante negare l'importanza di un altro campo che si organizzi, ma il PD c'è. E il Corriere aggiunge, con Maria Teresa Meli, piazze contrapposte e veleni, alta tensione tra PD e Renzi. Infatti il leader di Italia Viva non sarà al vertice con Conte, che non è il massimo per un... Il Premier chiama un vertice con i leader della maggioranza e lui non ci va. Direi che è un atteggiamento abbastanza di sgarbo, a parte il merito. Perché lui sarà invece a questa iniziativa a Torino, che si chiama Shock, iniziativa voluta da Matteo Renzi per presentare le proposte di Italia Viva per il rilancio dell'economia. E allora come si giustifica? Perché poi è bello Renzi che fa il guascone toscano. Ho preso l'impegno con i 5 Stelle che non avrei partecipato ad alcun tavolo. Loro hanno detto pubblicamente faremo un governo purché Renzi non partecipi alle riunioni. Io volentieri assecondo questa richiesta. Questa è la motivazione. E avanti così. Nel frattempo anche i 5 Stelle non navigano nell'abbondanza, perché leggo il piano degli eletti 5 Stelle, così vogliono mettere Di Maio all'angolo. I contrasti sull'Ilva e sui nuovi incarichi all'interno del movimento vengono segnalati al Corriere, ripresi anche dal Fatto Quotidiano. Tutti i guai dei 5 Stelle, il 5 Stelle litiga sul ruolo e i soldi e il Senato rischia altri addii. Si sta liquefando un po' come Forza Italia. I nodi, dalla discussione sulla segreteria politica alle restituzioni, le voci dei soldi, le voci della crisi grillina, in tanti temono che la Lega torni a corteggiare il capo, c'è un ritorno a casa, torna a casa Alessi. Nel frattempo abbiamo Emilia. Bonaccini debutta senza big nazionale del PD. Una volta il leader locale aspettava che arrivasse il leader nazionale perché dava forte, adesso invece dice no, stai bene a Roma, stai ben lontano. Il contrario di Narni, 5 anni fa con lui c'era Renzi, ieri nessun leader da Roma verrebbe penalizzato, dice drasticamente il Fatto Quotidiano. Anche il Corriere di Bologna, niente passerelle del governo, questo così la spiega Bonaccini perché è imbarazzante dire non voglio i dirigenti nazionali, che schiera 204 sindaci molto più presentabili. Sono quelli che appunto la Lega ha preso tanti voti alle europee, ma nei comuni ha perso perché i sindaci erano abbastanza apprezzati nella cinta bolognese, per esempio, i sindaci che lo sostengono, e marca una distanza proprio da Roma. Questo è quanto. Mentre abbiamo linea dura con gli immigrati, parliamo del decreto sicurezza, è il giornale. I giudici stanno con Salvini, per la Cassazione non basta l'integrazione per ottenere il permesso umanitario, l'ex ministro esulta, ma il Manifesto dice un'altra cosa che è un po' diversa da quella che dice il giornale questa mattina, perché il titolo è bottiglia mezza piena e mezza vuota. Il decreto legge sicurezza, la Cassazione dà ragione e torto a Salvini. Il decreto legge non è retroattivo, ma i permessi di soggiorno, l'integrazione non basta. Per i giudici va considerata la compromissione dei diritti umani nel paese d'origine. Questa cosa evidentemente il giornale non lo dice. La Lega appunto sarà questa sera a Paladozza, la città è blindata, traffico impazzito, ma non credo che né tempo né libero si... quando c'è uno sciopero dei lavoratori fuori, ah, il traffico è impazzito, quando c'è Salvini è bene che impazzisca. Ma detto questo, mentre noi tutti ci insardineremo in Piazza Maggiore, perché non vogliamo abboccare all'amo, quindi vestiti da sardino e da pesci, Piazza Maggiore in più di quelli che saranno dentro il Palazzo Paladozzo a sentire Salvini. Questo era un vademecum per insardinarci questa sera in Piazza Maggiore, ma tornando invece alla politica, quella seria, seria, andiamo a proporzionale Italicum 2, i paletti della maggioranza, legge elettorale. Il primo vertice esclude solo le ipotesi già escluse. Il PD ripropone il doppio turno di lista. Una battaglia persa per le femministe. In commissione IVA, la commissione finanze della Camera ha dichiarato inammissibile l'emendamento al decreto fiscale che chiedeva la riduzione dal 22 al 10% dell'IVA su una serie di prodotti igienici femminili, fra cui gli assorbenti. L'emendamento, con la prima firmataria Laura Boldrini del PD, è stato presentato da una trentina di parlamentari, sia di maggioranza sia d'opposizione, rinviato a lunedì il vertice di maggioranza che avrebbe dovuto decidere le modifiche di questa manovra. E visto che parliamo di donne, il Carlino Bologna in un trafiletto, uomini violenti, il percorso per riabilitarli. Ne ha parlato anche la nostra redazione di questo centro senza violenza rivolto agli uomini che maltrattano, compie 2 anni. Un'occasione per fare un bilancio delle attività fin qui svolte e per lanciare una nuova campagna di comunicazione. La nostra Sara Spimpolo ha intervistato Giuditta Creato del centro, sentiamo le sue parole. Ci saranno manifesti, appendini, locandine, e c'è una cartolina diretta proprio alla comunità, alla collettività, per dare il messaggio che esiste questo luogo in questo territorio, un luogo al quale possono rivolgersi uomini che hanno il problema della violenza all'interno delle loro relazioni, in particolare relazioni di intimità, e ovviamente anche a chi il problema non ce l'ha ma vuole informarsi perché è a conoscenza di, e quindi sapere come fare, conoscere il centro, conoscere in che modo lavoriamo e portare queste informazioni a chi il problema lo vive sulla propria pelle. Noi siamo soddisfatti, diciamo, perché possiamo ancora considerarci in qualche modo una start-up, perché abbiamo 2 anni di vita. Dalla fine del 2017, 17 novembre, è stato aperto il centro, dove abbiamo avuto una settantina e passa di contatti, di richieste proprio di informazioni e di aiuto. Sono 40 gli uomini con i quali abbiamo fatto almeno un colloquio. Oggi in percorso ce ne sono più di 20. Questi sono un po' i nostri numeri, e soprattutto diciamo che essendo comunque a 2 anni dall'inizio, alcuni percorsi sono andati avanti. Certo, abbiamo avuto anche alcuni abbandoni, una decina di uomini hanno abbandonato, alcuni nell'immediato, alcuni dopo, ma abbiamo visto anche che chi invece ha seguito e ha continuato con i colloqui qui ha avuto dei risultati rispetto alla cessazione dei comportamenti violenti. Per alcuni di questi, per quelli che hanno chiuso il percorso concordemente con l'operatore, e quindi a distanza di 10-12 mesi indicativamente da quando hanno iniziato, il monitoraggio che facciamo come operatori, come centro, per il momento sta dando risultati positivi, e cioè che le violenze sono cessate. In maggioranza sono richieste spontanee di aiuto, in maggioranza. Poi dopo c'è una parte che arriva attraverso i servizi sociali, molto poi attraverso l'interessamento diretto di partner, familiari, delle volte amiche e amici. Il servizio sociale sì, è importante perché alcuni sono uomini che hanno figli minori e quindi, come dire, lì il problema a volte interviene anche il tribunale per i minorenni e quindi viene fatta una richiesta anche pressante agli uomini di far qualcosa per prendere a mano il problema che hanno con l'uso della violenza. Allora, trentenni e quarantenni in prevalenza e anche c'è proprio circa un 30% con una leggera prevalenza, c'è circa 30% fra ventenni e trentenni e quarantenni. Abbiamo uno o due uomini più anziani di così. La professione è un indicatore interessante, sono rappresentate quasi tutte le professioni, nel senso che ci sono medici, ci sono operai, ci sono informatici, ci sono giornalisti. Sappiamo dalla ricerca che così è il problema, anche se il livello di scolarità è medio alto. E questo appunto era un identikit del centro antiviolenza, appunto, della tipologia di maschi che ricorrono al centro. Ma veniamo quindi alla pagina internazionale e lo facciamo con questo titolo che arriva dal Medio Oriente, anzi dal mondo del petrolio. Parlavamo di donne? L'Arabia Saudita, che sono quelli buoni, sono quelli amici dell'Occidente. L'Arabia Saudita combatte le femministe, carcere e frustate. Poi fa marcia indietro. Punibili per estremismo. Ma dopo le polemiche la smentita, è stato un errore, quindi non potete guidare, ma però niente frustate. Questa è la democrazia dell'Arabia Saudita. Spostiamoci più a nord, veniamo alla democrazia di Israele. Gaza è sotto attacco, cioè prima Israele fa degli atti terroristici, uccide i capi della parte avversa, poi dopo dai territori partono i razzi e rispondono con gli raid aerei. Raid senza sosta, uccisi 26 palestinesi. Naturalmente qui c'è molto meno attenzione ai giornali perché non si tratta di due coloni feriti o dei bambini impauriti nei territori occupati, perché mentre i bambini a Gaza fanno festa quando li bombardano, evidentemente non sono affatto impauriti. Allora, sterminata una famiglia araba, la Jihad risponde con i razzi verso Israele, Hamas no, incontri al Cairo per la tregua. Questo è il quadro, mentre Bibi Netanyahu è un bambino sempre in piedi nonostante la sconfitta elettorale, nonostante le inchieste, Bibi si salva ancora, il Kud verso il governo, ancora dal manifesto. Vediamo come la descrive questa vicenda medio orientale la pagina del Fatto Quotidiano. Gaza, Israele, colpi incrociati, 23 arabi morti. Si vede che gli arabi non sanno sparare, perché muoiono solo loro. Saranno anche incrociati i colpi, ma muoiono solo gli arabi. Sì, ricordiamo che stanotte alle 4, grazie all'intercessione dell'Egitto, è stato firmato un armistizio con un cessate il fuoco, anche se qualche esplosione si è sentita comunque. A pagina 13 ci parla dell'argomento di Gaza, il quotidiano La Stampa di Torino, e migliaia, 26 sono i palestinesi morti e migliaia di civili israeliani si ritrovano nei rifugi. C'è un reportage di Fabiana Magri che ci dice che vivere sotto i razzi al confine con la striscia di Gaza, dove in 15 secondi sono quelli che separano tra la vita e la morte. C'è una turista italiana ferita, rimasta ferita alla spalla da un candelotto di gas lacrimogeno durante gli scontri scoppiati tra palestinesi e militari dello Stato ebraico a Betlemme, nel sud della Cisgiordania. E ce lo dice un responsabile della Mezzaluna Rossa. Ancora altre notizie dal mondo, sempre dalle pagine della Stampa. Da Londra, dopo il patto con Farage, Boris Johnson vola nei sondaggi. A un mese dalle elezioni, Boris Johnson ha un vantaggio di 14 punti sul leader dell'opposizione Jeremy Corbyn, e questo è il risultato di un sondaggio pubblicato dal quotidiano Times l'indomani della decisione presa dal Brexit Party di Nigel Farage di non presentare candidati nei 317 collegi vinti dai Tory nelle precedenti elezioni. Passiamo dall'altra parte dell'oceano, in Bolivia, La Paz, Jeanine Añez si autoproclama capo di Stato provvisorio. Fra i primi a salutare la nuova presidente boliviana Jeanine Añez è stato Juan Guaidó. Doppio presidente leader dell'opposizione venezuelana, entusiasta per la rottura dell'asse decennale fra Caracas e La Paz. Voi boliviani rappresenta un'ispirazione per noi e siamo convinti anche che conquisteremo la libertà. La Agnès si è autoproclamata capo di Stato provvisoria martedì notte in un'aula occupata solo dai senatori dell'opposizione che, a causa della diserzione dei seguaci del dimissionario Evo Morales, nel suo primo discorso dal balcone affacciato dalla Plaza Murillo di La Paz, anch'essa semideserta, ha imbracciato una Bibbia gigante e ha fatto diversi riferimenti religiosi. E in Bolivia però la pace è lontana, la tensione continua, soprattutto nelle due roccaforti dei seguaci di Morales, la città satellite del El Alto, 1 milione di abitanti arroccati a 4.000 metri sul livello del mare, sopra La Paz, e nel tropico di Cochabamba, la regione centrale del paese dove è iniziata la lunga carriera dell'ex presidente indio Evo Morales. Seguendo la geografia politica degli ultimi anni, si è festeggiato invece molto a Santa Cruz la politica meticcia orientale, bastione per una più dura e conservatrice opposizione guidata dall'industriale Fernando Camacho, scusate. E c'è una fotonotizia sempre sulle pagine della Stampa che riguarda il Libano, con proteste e fiamme sulle barricate, incidenti scoppiati ieri a Tripoli in Libano. I disordini sono stati innescati da un'intervista televisiva del presidente Michel Aoun, che aveva sollecitato i manifestanti di mettere fine alla rivolta contro la corruzione in corso da giorni nel paese. Già subito dopo l'intervista, nella notte di martedì, erano divampati violenti tumulti culminati nell'uccisione di un manifestante da parte di un soldato al posto di blocco di Beirut. Il Manifesto, con Marco Pagli, nell'ultima pagina parla delle sbarre del Libano. Viaggio dentro il carcere di Rumiè, il più grande del paese. Sono 4.000 detenuti, profughi senza permesso, persone ai margini, bambini, lo specchio di una società che chiede equità. Ricordo un film con Banderas delle carceri messicane, dei narcotrafficanti. Insomma, sono degli inferni. Ma tu dicevi la Bolivia. Beh, direi che è il nuovo canone dell'America Latina. Uno perde le elezioni e si autoproclama presidente. Perché in Bolivia non si sa se Evo Morales abbia vinto al primo turno senza andare a ballottaggio o meno. Quello che sa per certo è che l'opposizione aveva un perso, esatto, con 10 punti di scarto. Però si è autoproclamata, la Jeannine, proclamata presidente della Bolivia. Ma prima di lei ci ha provato Guaidó, autoproclamato presidente del Venezuela, in cui perdeva l'elezione e si è autoproclamato presidente. A Guaidó è andata peggio che a questa signora, per il momento. La senatrice dell'opposizione per metà del paese è un'usurpatrice, per l'altra il simbolo della liberazione. Beh, non proprio per metà, visto le elezioni. Mi spiace dirlo a Rocco Cotroneo del Corriere della Sera. E il Manifesto dice: Bolivia nel Parlamento deserto, Jeannine Agnès conclude il golpe. Perché se non è un golpe questo, scusatemi, cos'è un golpe? Quando polizia e carabineros si insorgono, cacciano via il presidente democraticamente eletto e mettono un'usurpatrice, beh, è il golpe. L'autoproclamata presidente ad interim sfrutta l'assenza dei deputati del MAS che annunciano non la riconosciamo. Tra le 7 vittime della protesta in corso finora confermate dalla Procura Generale della Bolivia, 5 sono morti in seguito a colpi di arma da fuoco sparate da militari e polizia, cioè dai golpisti, insomma. Questo. Nel frattempo, golpe per golpe, andiamo alla costituente dall'alto. Piñera, e siamo in Cile, riceve un altro no, con 2 milioni di persone in piazza. Qui però le persone in piazza non fanno testo come in Colombia, come in Brasile, come in Bolivia, come in Venezuela. Qui no, qui invece è diverso, perché chiaramente il Cile è di destra, quindi piace a Trump e piace anche ai giornali italiani. A quasi un mese dall'inizio della rivolta popolare contro il suo governo, il presidente Piñera ha tentato ogni strada per mettere fine alle proteste, ogni strada tranne una, l'unica che risulterebbe decisiva, la rinuncia, l'ultima carta giocata dal presidente del congresso costituente incaricato di redigere una costituzione. E questo invece è legalissimo, cioè questo è una cosa che nessuno ha niente da dire su questo, che uno dall'alto dice scambio la costituzione con la mia commissione. Gli è andata fatta male, perché in questo momento non è fortissimo socialmente nel paese. Chiudo con la testa del serpente, quello che sarebbe da schiacciare, cioè Donald Trump, perché è lui che è il regista di queste cose, va da sé. Impeachment via lo show. USA, cioè inteso come elettori americani, incollati alla TV per le audizioni aperte. L'accusa: Trump ricattò l'Ucraina su Biden, ormai è più che provato, anche se tutti ci fanno sapere, credo che sia vero, che non sarà l'impeachment o non impeachment che cambieranno le elezioni in America, perché chi è filo Trump lo vuole bandito. Non nel senso di allontanato, ma nel senso di corsaro. La replica è solo una caccia alle streghe, sempre sotto, e parla invece il super talpa, questo uomo dei suoi segreti che c'è, Trump è stato appunto, ha chiesto al leader ucraino di inguaiare Biden per dargli delle forniture economiche militari. Questo è il quadro. Ma cronaca locale, e allora abbiamo la pagina del Corriere, abbiamo già detto dell'aspetto bolognese, Lega parte la Sarta del Fortino Emilia, quindi c'era anche l'esordio di Salvini a Bologna, abbiamo già detto. Ma per quanto riguarda la cronaca, ristorante in fiamme, indagano i carabinieri in via Stendhal, gestito da cinesi, rogo doloso, al Corriere di Bologna. Nella notte tra martedì e mercoledì un incendio ha distrutto il ristorante cinese Jubin di via Stendhal. I primi accertamenti dei carabinieri della stazione Corticelle e dei colleghi della stazione investigazioni scientifiche lasciano un po' pochi dubbi, è di origine dolosa, il fuoco, le fiamme hanno spaventato residenti e passanti che lanciano l'allarme, e qui la vicenda. Sì, abbiamo parlato delle sardine in piazza, oltre 6.000, e alla manifestazione, al flash mob parteciperanno anche i centri sociali che si sono ripromessi di restare tranquilli senza creare grossi disordini. E in quello che riguarda le notizie local abbiamo poco altro. C'è il comune che ha dichiarato l'operazione Ravaldoni, ovvero via le bici fantasma dalle strade. In 6 mesi ne sono state recuperate 477, un più 75% rispetto al 2018, e dall'inizio dell'anno 74 sono state rigenerate e vendute. Poi c'è un'intervista a Romano Montroni, di 80 anni, il decano delle librerie di Bologna, e c'è una bella vittoria in Coppa da parte della Virtus Segafredo, che ha battuto la squadra del Israele, del Maccabi, sì. Finiamo con il contrattacco, siamo alla seconda serata al VAG, perché dal 15 al 17 torna la seconda edizione bolognese di Contrattacco, il festival di letteratura sociale di Alegre. Radio Città Fucico seguirà in diretta streaming questo evento, ma intanto cominciamo a sviscerare questo programma. Nella seconda serata, quella di sabato 16, si parlerà di intersezioni e narrazioni tossiche, e ce ne ha parlato Vooming 1. Con questo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani sempre alla stessa ora. Ciao, buon ascolto. Sabato la giornata sarà principalmente, anche se non esclusivamente, dedicata alle questioni illuminate dai recenti libri di Mauro Vanetti e Wolf Bukowski e Sara Gainsborough, vale a dire La sinistra di destra, La buona educazione degli oppressi e Airbnb città merce. Il percorso che verrà fatto andrà proprio in quest'ordine qui, dal libro di Vanetti al libro di Sara Gainsborough. Prima si parlerà della questione appunto della la sinistra di destra vecchia, vale a dire la sinistra che ha ceduto in toto al neoliberismo, alla logica del capitale, dello sfruttamento, spacciandola per grande modernità e cose del genere, tutto quello che abbiamo visto e che si è incarnato in questi anni nel PD, nel renzismo, in tutto quanto, però che è un fenomeno internazionale, non certo solo italiano. E poi la seconda sinistra di destra, che è quella invece di queste alchimie, questi sovranismi di sinistra, sedicenti, questi rossobrunismi, cioè cedimenti da parte di persone che prima erano di sinistra, militanti di partiti, anche comunisti, eccetera, cedimenti di fronte a nazionalismi, razzismi, spesso con una leggera tinteggiatura rouge sopra discorsi che in realtà sono contro gli immigrati e tutto quanto. Il libro di Wolf è stato presentato, se ne è parlato più volte anche qui su Radio Città Fucico, appunto parla del decoro come retorica, come grimaldello per far passare determinate logiche di controllo della città, di controllo delle vite, dei modi di vivere, e funzionale alla ristrutturazione urbana, alla cosiddetta gentrificazione e tutto quanto. E guarda caso, le città che sono in Italia all'avanguardia in questi processi sono amministrate dal PD, ecco, e quindi è la nuova sinistra di destra che ha fatto da punta di lancio, da ariete, usiamo la metafora che vogliamo, per portare avanti questo tipo di processi. E questo tipo di processi qui ha portato anche al fenomeno della Airbnbizzazione, come è stata più volte chiamata. Anche questo è un tema che qui alla radio avete toccato più volte. Il libro che è uscito per Deriva Prodi spiega quali sono state le dinamiche che in questi anni hanno portato a un problema abitativo enorme, perché chi amministra le città ha lasciato la briglia sciolta a questo colosso, appunto, dell'economia delle piattaforme, della cosiddetta gig economy, eccetera, eccetera, che era partita come qualcosa di amicale, di simpatico, basato sulla condivisione, invece poi si è trasformato, come tutto, come Just Eat, come Amazon, come tutto quanto, cioè appunto l'economia delle piattaforme, è il nuovo estrattivismo di valore dalla vita. E guarda caso, e lo sappiamo bene, qui a Bologna è proprio la vecchia sinistra di destra, appunto quella liberal e liberista e tutto quanto, che ha avuto più cedimenti nei confronti di questi processi. Quindi, diciamo, il dibattito che ci sarà dopo cena toccherà questi temi, perché stanno insieme in maniera molto armoniosa.